Un po' di sigla per quanto riguarda gli altri suoni, ritornando in diretta dal GR di Radio Popolare per oggi vigilia di weekend e il venerdì della penultima settimana di programmazione del Breakfast Club. Altri suoni ha iniziato il percorso ieri con DJ Crash per quanto riguarda progetti di DJ Works e Turntablism, cioè musica riuscita con Technics o con giradischi e mixer, prendendo un tagliacucci, chiamiamolo così, è prodotto, editato con l'editing e la progettazione di produttori carichi di talento, entusiasmo. Negli anni 90 ve ne sono stati diversi. Ieri con DJ Crash abbiamo iniziato il percorso, oggi procediamo e ci spostiamo dal Giappone al Brasile per conoscere Amon Adonai Santos de Aranjo Tobin, in arte più semplicemente Amon Tobin. Nasce a Rio de Janeiro nel 1972. Le sonorità sono corpose. Per me Amon Tobin è un rasoio. Ecco, la prima sensazione che mi dà la musica di Amon Tobin è questa. La prima, per così dire, definizione che ha avuto la sua musica e soprattutto il suo pseudonimo, già magari amante di un certo tipo di cinema, è Cujo. Per quanto riguarda l'aspetto cinematico della sua musica, tutto ciò è estremamente attinente, tanto più che nel percorso di carriera ha avuto modo di lavorare anche per colonne sonore, video arte e quant'altro. Iniziamo col suo primo lavoro, siamo nel 1994, la produzione è per Ninja Tune Record. Le sue modalità di campionamento riguardano jazz, dub e samba, per iniziare appunto questa innovazione e questa composizione unicamente dovuta dal turntablism e dal DJ work. Ce lo ascoltiamo, poi ne vedremo gli sviluppi. Sono stati ristampati in seguito perché la prima pubblicazione è stata veramente molto limitata, a nome Cujo, a seguire poi con il suo nome più abbreviato Amon Tobin. Questo è il suo primo lavoro a nome Amon Tobin. Bricolage, già il titolo insomma lascia intendere un lavoro di tagli e cuci quanto mai raffinato. Allora, DJ Works dal 90, qualcosa magari anche prima con l'hip hop, la ricerca, la C-Jazz, ok, ve ne sono stati diversi di progetti tali, ognuno con le sue sfaccettature. In altri suoni riporto quelli più particolari, quelli più così inerenti a una diffusione specifica per la composizione delle playlist in questa rubrica. a Montobin, una discografia molto ricca, album in studio, collaborazioni e colonne sonore. Quindi da un primo ascolto abbiamo intuito chiaramente la presenza di ricerca in ambito di jazz, un taglio e cuci che nel jazz ha avuto una ricerca spaziandola in maniera trasversale. Ieri con DJ Crash da Sollevante, questo DJ anche lui molto oscuro però molto più vicino all'hip hop. Questo è il suo secondo lavoro, si discosta poco se vogliamo, ma già inizia un lavoro più incisivo per Mutation, per quanto riguarda un lavoro che poi sfocerà anche nel drum and bass. Ho detto rasoiate proprio perché nei suoi lavori, soprattutto Nome Cugio, i lavori di campionamento sono veramente taglienti, sono molto incisivi. Nei primi due dischi a Nome Amon Tobin, come ho detto, la ritmica certo è fondamentale, ma vi è una scrittura con un approccio diverso. E Ninja Tune è la label che, per quanto riguarda il DJ Works, direi che è tuttora seminale. A volte ostico, è un musicista, come ho detto, tagliente. Infatti nel disco che concluderà di solito propongo tre dischi in altri suoni. Dove troveremo più presente la linea del dub. Lui DJ fa ricerca e appunto da mixer e vinile trova questi suoni, ma lui è un polistrumentista: chitarra, basso, batteria, sax e ovviamente la drum machine, che è chiaramente ed è evidente nelle sonorità che stiamo ascoltando. Concludiamo con Super Modified, il terzo disco che ha trovato luce per Ninja Tune Record, e l'elettronica reiterata in una ritmica forte in questo caso diventa assolutamente già sentita, sempre più presente. Completo e un produttore, e appunto con questo brano andiamo verso il termine a questa mini playlist ricordando i tre dischi, tutti e tre bellissimi, tutti e tre per Ninja Tune, da Bricolage a Permutation a Super Modified. Sonora, questa è molto cinematica, l'espressione di Amon Tobin che stiamo portando a conclusione. Tra poco avremo la rubrica In Scena, si alza al sipario sui 103.1, il lavoro sul DJ Works ci porterà invece in Europa per lunedì, dove conosceremo la label di Matthew Herbert, l'Accidental. Intanto siamo partiti con DJ Crash, con Mo Wax, siamo passati alla Ninja Tune con Amon Tobin, con Matthew Herbert e la sua Accidental procederemo per conoscere il lavoro di questi produttori. Tra il noise di intensità, dei beat fortissimi, come ho detto, Amon Tobin è una rasoiata. A tra poco sui 103.1 In Scena.